Pronto? Pronto? Gianfranco, buongiorno. Buongiorno, mi sente bene, sì? Io ti sento benissimo, sì, tu mi senti? Oh, meglio così. Benissimo. Primo vorrei salutare mio figlio Giordano, se è ad ascolto. Oh, beh, scusami, hai detto, come si chiama tuo figlio? Giordano. Giordano, perfetto. Quando... Non vuole più studiare, anche se era mio di pasella. Perché non vuole più studiare, scusami? Non vuole più studiare perché, non è perché vuole farlo, si va avanti, vuole andare a lavorare addirittura. Ma quanti anni ha? Ha 21 anni. Però Gianfranco, come dargli torto a 21 anni? Ma, infatti, allora, cioè, detto tra di noi. Ma la scuola, poi ha trovato dei professori, che gli ha fatto odiare. Vabbè, vabbè. Senti, forse è un discorso che riguarda più voi che non me, lui, direi. Mi racconti invece tu da quanto tempo ozi e come te la godi? Io me la godo perché tu sei molto giovane, mi sembra. Beh, c'ho 35 anni, insomma, me la cavicchio. Ecco, bravo, bravo. Lavori? Sì, perché lavori nella radio. Più o meno paghi i contributi? Anche, sì. Bravo, bravo. Mi raccomando, non smettere di lavorare, perché io il 2 del mese prossimo voglio trovare quello che devo trovare in banca. Cioè, in che senso? Mantieni in pratica, no? Ah, ok, ho capito, che lavora, io sto tranquillo, molto tranquillo. Da quant'è che sei in pensione, Gianfranco? Beh, io in pensione non sto in pensione, io sto in ferie finché campo, il che è diverso, eh? Ma scusa, cosa hai fatto prima di andare in ferie finché campassi? Io lavoravo, adesso sto in ferie finché... Sai perché ti dico che sto in ferie? Perché? Per un semplice motivo, perché sul Sole 24 Ore, una volta ho visto una statistica che mi è piaciuta poco. Allora dice, chi va in pensione, chi campa un giorno, chi 30, la media è 15. E questo è come il pollo, chi ne mangia due e chi niente ha un pollo a testa. No? Okay. Non mi è piaciuta. Guarda, andrò a fare le tue rimostranze a chi di dovere sopra. Più tardi salgo al terzo piano e glielo dico. Sì, che nelle ferie non c'è, dove va? Ok, senti, dimmi a che ora ti alzi la mattina e a che ora vai a letto la sera, poi ti saluto. Io mi alzo quando capita e vado a dormire quando capita. Gianfranco, come viene. Grazie mille, buona giornata. Se la prendo, se la voglio, no, te la prendo da un'altra parte. Va bene, ciao Gianfranco, grazie.